e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci pronti per una nuova puntata di Cuore e Denari. Saremo insieme sino alle 12 in questo giorno particolare. 20 sì. luglio 1969, l'uomo mette il suo piedino sulla Luna. Esatto. Che emozione. Mamma Io c'ero, mia. Tu no. Altro che se c'era, avevo un mese di vita, pensa che piccola bebè che ero. Perché il 69 è stata una data importante anche per la nascita dell'astro nascente dei conduttori radiofonici. Quindi, insomma, qua, come vedete, nessun pudore nel dichiarare l'età. Qua non esiste. Eccolo là, sì, esatto, infatti. Adesso Nicoletta mi spedisce sulla Luna con un calcio nel sedere. No, sto pensando che per il tuo prossimo compleanno potrei regalarti il personal robot, perché dopo il personal computer, il personal training, il personal shopper arriva anche il robottino. Anche il personal financial advisor, non quello di cui parleremo dopo, c'è anche quello personal, il financial wellness, qualcosa del genere. Ma sai che io con l'inglese, sarà che non sono del 69, ma non ci azzecco molto. Questo personal robot è stato ideato dall'Istituto Italiano di Tecnologia R1, così si chiama, no? Però magari potremmo inventargli, dargli un nome, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a cui non manca la fantasia, di trovare questo un nome, come lo chiamereste, questo robottino che promette di pulire, di cucinare, di fare la spesa, chissà se ti parla e ti tira su anche il morale. C'ha la sua carta di credito naturalmente per fare tutto tra questo. I denti, ecco. E costerà, insomma, vorrei regalartelo, ma non è bello dire quanto costa i regali, comunque 8.000 euro, quindi tu devi farmi fare un investimentino che mi renda per Dovevo il tuo compleanno prossimo. Lupotto, e magari questo è il futuro, quindi avremo un robottino accanto. Allora, cara io mia, lo chiamerei tu pensavi che io fossi non pronta sull'argomento, e invece sappi che anche nel mondo degli investimenti e del risparmio c'è un robot nuovo che ci farà da consulente nel futuro. In realtà lo stanno già utilizzando molte banche, istituzioni finanziarie. C'è questo nuovo mondo dei robo advisor. Queste intelligenze artificiali non hanno la forma del robottino di Guerre Stellari, Obi-Wan Kenobi e compagnia bella, ma potremmo immaginarceli perché sono delle piattaforme online che sulla base di algoritmi specifici offrono ai risparmiatori delle soluzioni di investimento già predefinite, precostituite, dei portafogli già fatti che si possono poi più o meno personalizzare a seconda delle esigenze. Per cui tu guarda qua già da settembre quanti argomenti dei quali siamo pronte a poter parlare, no? E noi naturalmente magari in futuro ad investire informati, in un futuro molto vicino ne parleremo. Allora, nell'attesa di vedere come si svilupperanno le cose, noi iniziamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo! La giusta idratazione, un controllo della pressione, se proprio non tolgono il medico di torno, ci aiutano a salvare cuore e cervello, quella straordinaria coppia unita nella buona e nella cattiva sorte. Iniziamo così la nostra rassegna stampa di oggi, perché nel momento in cui l'estate entra nel vivo, gli esperti ribadiscono l'importanza di compensare la sudorazione eccessiva, di non sottovalutare la pressione bassa e, naturalmente, se non si è adeguatamente preparati, di evitare di fare il Superman sotto il soleone praticando sport. Insomma, queste sono raccomandazioni di buon senso, le conosciamo bene, ma hanno anche un razionale e ce lo facciamo raccontare dalla dottoressa Maria Frigerio, direttore del De Gasperis Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano, che è in linea con noi. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Quando le temperature aumentano, la pressione si abbassa, è fisiologico, e anche l'afflusso di sangue al cuore. Noi sappiamo e sottolineiamo sempre i danni dell'ipertensione, della pressione alta, ma anche quella troppo bassa può rappresentare dei rischi? Certamente sì, e non solo la pressione bassa, ma anche la disidratazione. Per quello che riguarda la pressione bassa, il rischio più evidente è quello di capogiri e per giunta di cadute a terra o di incidenti stradali, anche con traumi e danno a sé o a terzi, e anche la facilitazione di trombosi vascolari, potenziata quest'ultima anche da una disidratazione, cioè da una perdita eccessiva di liquidi, che comporta il fatto di avere un sangue più denso, più spesso in conseguenza. Infine, un eccesso di sudorazione e una pressione troppo bassa può anche alterare indirettamente il ritmo del cuore. Quindi è normale, quasi fisiologico, che il cuore perda un po' il ritmo, è l'effetto del caldo e della disidratazione? Non è normale, non è assolutamente necessario. Diciamo che la perdita di sali che si associa alla perdita di acqua col sudore può in qualche caso determinare un'alterazione dell'equilibrio dei sali, dei diversi elementi che stanno nel nostro sangue, e questo può facilitare le aritmie. Ma non è detto che succeda, non è detto che succeda né ai sani né ai malati, diciamo che è una situazione da tenere sotto controllo. Dottoressa Frigerio, in estate solitamente, dato che la pressione fisiologicamente per il caldo si abbassa, anche le persone che seguono una terapia per la pressione alta la ritoccano, spesso con l'aiuto del medico, è sempre sconsigliato il fai da te. Ma il rischio è che poi la pressione si abbassi ulteriormente. Come fare per trovare, no, la giusta terapia? Quanto ci si mette a calibrarla correttamente? E ci sono eventuali errori, rischi che nel quotidiano le persone possono fare? Dunque, in primo luogo bisogna, come ha detto giustamente lei, evitare il fai da te. Noi portiamo generalmente la macchina a fare il tagliando o a controllare i livelli prima di partire per una lunga vacanza e un lungo viaggio in auto, e sarebbe bene anche che con congruo anticipo, non affollando magari gli studi medici tutti assieme a fine luglio, ci si facesse fare un tagliando e si valutasse la condizione del proprio organismo, del proprio motore e dei propri accessori. In secondo luogo, diciamo che una certa regolarità di ritmo di vita ci aiuta anche ad avere dei parametri più costanti, il che vuol dire non mangiare troppo salato per un giorno o due filati e poi dopo dedicarci invece a una dieta assolutamente fatta di acqua e verdure scondite per la settimana successiva. Questo direi che è una prima regola. Un'altra cosa può essere, senza diventare ossessivi in questo, misurarsi la pressione con maggiore frequenza, soprattutto se sappiamo che siamo soggetti a sbalzi. E poi non siamo tutti soggetti a delle irregolarità come allo stesso modo. Per esempio, le persone più anziane spesso hanno una reattività vascolare più bassa che non compensa adeguatamente le variazioni di volume all'interno del nostro circolo sanguigno, che sono abbastanza fisiologiche. Una persona di una certa età può compensarlo adattando le resistenze, lo stato di costrizione o dilatazione dei vasi. Se i vasi sono più rigidi, questa compensazione è meno efficiente. Dottoressa Frigerio, noi ci sentiremo presto per il nostro appuntamento I Colori del Cuore, questa bella iniziativa che ci vede accanto alla Fondazione De Gasperi e all'Ospedale Niguarda. Un'occasione per parlare della salute e del benessere del nostro cuore. Per questa puntata i colori addirittura sono due, dottoressa Frigerio. Sì, abbiamo pensato al cuore in bianco e nero. Non perché siamo juventini. Non perché siamo juventini. Ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Perché io sono granata. Che guardavamo nelle arene estive, il bianco e nero dei capelli delle persone che con il passare degli anni, quindi parleremo dei cuori brizzolati, per così dire. Ah. E di conseguenza delle precauzioni, delle attenzioni da prendere con il passare degli anni, delle nuove e vecchie categorie di anziani, di vecchi e di grandi anziani, e di una patologia importante, come lei giustamente ha detto prima, collegata alla cardiopatia, che è l'ictus, quindi collegamento cuore-cervello, e di terapie innovative negli anziani se sono usate in modo appropriato, troppo scarso o addirittura eccessivo, e di tutto quello che ha a che fare con un buon invecchiamento. Allora, l'appuntamento è per martedì 26. Nel frattempo vi invito ad approfittare a questa straordinaria occasione che è la posta del cuore. Abbiamo tutti i cardiologi, vero, della Fondazione De Gasperi e dell'Ospedale Niguarda a disposizione. Ottimo. Per prendersi cura del nostro cuore, per darci delle indicazioni, delle informazioni, fare delle puntualizzazioni. Quindi scriveteci, noi naturalmente mettiamo anche il link per l'indirizzo della posta del cuore, e iniziate a fare le vostre domande, suggerirci dei temi, e il 26 luglio prossimo apriremo naturalmente come sempre i nostri microfoni, e con la collaborazione e l'esperienza della dottoressa Frigerio e dei nostri esperti risponderemo a tutte le vostre domande e vi faremo partire con tutte le indicazioni necessarie per partire sereni con delle vacanze straordinarie anche per il vostro cuore. Dottoressa Frigerio, grazie. Grazie. Ci sentiamo presto. A presto, arrivederci a lei e agli ascoltatori. Adesso per la seconda notizia, Deborah, sì. Un piccolo indovinello che vediamo se ci aiuta pronta. Anche un po' a mantenere giovane e allenato e rinfrescato il nostro cervello. Viene di notte, non è la Befana, anche perché non questo è non è il suo momento. Di solito si presenta con un formicolio alle dita e nel tempo si evolve con una perdita di sensibilità e di forza delle dita e della mano e colpisce soprattutto le donne. Parliamo del... tunnel carpale. Linea con noi è tornata la dottoressa Simonetta Odella, chirurgo della mano al Pini di Milano. Buongiorno dottoressa. Nicoletta, buongiorno, come state? Noi siamo molto bene, siamo quasi in odore di vacanze. Vero? Cosa, la Deborah mi fa subito segno che... Non è il tunnel carpale, ma è il residuo della mia... rinomata caduta in bicicletta avuta di recente che mi ha lasciato degli strascichi, ecco, ho fatto anche questa confessione oltre all'età stamattina, quindi mi servirebbe qua la dottoressa Odella farmi controllare un po' il mio polso un po' precario. Allora me lo dica, vengo quando vuole. Questo grazie. Ci dà lo spunto per dare il primo messaggio che non ha niente a che fare col tunnel carpale. Attenzione, la dottoressa Odella ne aveva parlato in una trasmissione, sì. Di non sottovalutare le cadute, caviglia e polso sono, no? Uno dice ma ho fatto ho preso una piccola slegatura posso al polso. Dire che mi fa male una infatti... storta alla caviglia, dai, poi passa da solo, invece poi passa, ma ci mette molto e a volte la situazione si complica. Dottoressa Odella. È vero, è proprio così, traumi al polso non vanno mai sottovalutati, intanto perché alle volte possono verificarsi delle fratture che non si vedono nell'immediato, che sono quelle a carico di un piccolo osso che si chiama scafoide, ma che è importantissimo per il funzionamento corretto del nostro polso. E poi perché a volte durante a seguito di una caduta possiamo avere anche un trauma del nervo mediano, può essere contuso e quindi questo può creare sicuramente dei problemi, dei dolori, dei formicolii, quindi mai trascurare veramente i traumi al polso. Ci vuole il ghiaccio, facciamo un intervento rapido per l'acuto, ghiaccio e poi una benda? Ghiaccio e una immobilizzazione, una polsiera rigida, ma molto importante recarsi da uno specialista e fare le indagini adeguate, soprattutto inizialmente una visita clinica, in modo tale da valutare dove sono le regioni del dolore e in base a quello possono essere fatte poi delle indagini diagnostiche, sicuramente la prima e la più semplice è la banale radiografia per vedere lo stato di salute delle nostre ossa. Dottoressa Odella, adesso il tema, il polso ci ha portato lontano, ma neanche tanto, perché ritorniamo a parlare di tunnel carpale, una patologia che secondo le ultime ricerche ha un costo sociale non indifferente, in attesa dei dati italiani, però ci sono quelli americani che fotografano una situazione particolarmente critica, perché secondo il Dipartimento del Lavoro americano, pensate che chi soffre di tunnel carpale accumula in media 25 giorni di assenza dal lavoro nell'arco di un anno. Non sono pochi, la donna di denari ha già le antennine dritte. Dottoressa, però si può prevenire e prima di ricorrere al bisturi si può giocare sulla prevenzione. Assolutamente, ecco, bisogna con degli assolutamente esercizi che lei ci suggerirà. Allora, dottoressa, cosa facciamo? Beh, innanzitutto bisogna essere attenti ai primi campanelli d'allarme. Come ben avete detto voi, i primi sintomi della sindrome del tunnel carpale, che altro non è che uno schiacciamento del nervo mediano nel canale dove generalmente scorre, che è un canale osteofibroso, e che può andare incontro alle volte a dei restringimenti per svariate cause, ma nella maggior parte dei casi è idiopatica la patologia, non c'è una causa vera e propria, c'è una predisposizione anche magari nei polsi un pochettino più piccoli. I primi sintomi, le prime avvisaglie arrivano proprio di notte, ci svegliamo perché abbiamo dolore, perché abbiamo intorpidimento delle prime tre dita della mano e questo ci porta al risveglio notturno. Questo è proprio il primo campanello d'allarme da non sottovalutare. Ecco, possiamo in un minuto, che cosa si fa quando ci troviamo descritti in questa situazione? Quindi formicolio alle prime tre dita, ci risvegliamo di notte. Da che cosa, come procediamo? Tutore? Ginnastica? Beh, la prima cosa è farsi vedere da uno specialista, questo è molto importante perché il formicolio oltre che può essere dovuto ad una compressione periferica del nervo mediano potrebbe essere dovuto invece ad un intorpidimento su base vascolare oppure potrebbe essere dovuto ad una causa più alta a livello del rachide cervicale, quindi il fai da te di solito è abbastanza sconsigliabile, bisogna farsi visitare da un medico che si occupi di chirurgia della mano in modo tale da avere un'adeguata diagnosi. Se effettivamente abbiamo un iniziale tunnel carpale, l'utilizzo di un tutore durante la notte che mette il polso in una posizione riposo. di scarico funzionale in una posizione di riposo permette al nostro nervo di stare con una pressione interna inferiore, quindi di stare riposato e di non creare questo fastidio durante la notte. Possiamo prendere inizialmente degli integratori alimentari che aiutano la conduzione nervosa e possiamo avere degli accorgimenti durante la giornata. Tutti noi facciamo uso frequentemente di tastiere mouse, oppure alcuni lavoratori pesanti hanno dei gesti ripetuti con il polso in flessione, oppure anche gli uomini adesso abbiamo visto che hanno un aumento della sindrome del tunnel carpale, che prevalentemente però è un appannaggio femminile. I lavoratori manuali pesanti, i trivellatori, coloro che quindi usano molto i polsi, possono andare incontro a questo tipo di patologia. Bisognerebbe avere la possibilità di interrompere le proprie funzioni manuali e muovere il polso e fare dello stretching in estensione in modo tale da ridurre la pressione all'interno di questo canale ogni 20 minuti circa. Mi rendo conto che non sempre è possibile poterlo fare, ma però ne approfittiamo per staccare, che così ammicchiamo anche un po' gli occhi, sgranchiamo un po' le gambe, ogni 20 minuti ci prendiamo una pausa e ne otterremo tanti benefici. Grazie dottoressa Odella per essere stata con noi, mi prenderò cura del polso di Deborah, sperando poi che non cada di nuovo dalla bici. Ma se dovesse aver bisogno Deborah vengo arrivo, a trovarla volentieri. Arrivo. Grazie dottoressa. Grazie a voi, servizio a domicilio, giornata. Hai visto? Altro che personale, che è robottini qua. Ma guardali qua. Infatti. E noi dobbiamo andare a sentire cosa succede. Andiamo al traffico. Cuore e denari. Partiamo con la nostra rassegna stampa di denari. Intanto la borsa è positiva, abbiamo un rialzo di un punto a Parigi e a Francoforte, Londra più 0,4, Milano più 0,45%. Le banche ritornano a guadagnare terreno nonostante sia arrivato questa mattina anche un nuovo rapporto di Moody's che, dopo aver messo sotto osservazione Monte dei Paschi, quest'oggi dice le norme del bail-in sono messe alla prova dai problemi delle banche italiane su cui gravano, come sappiamo, 360 miliardi di euro di prestiti di cattiva qualità. Però i titoli bancari oggi recuperano, anche se il miglior titolo è un petrolifero. Saipem guadagna 3,5 punti, più 1,8 per Intesa San Paolo e Recordati, STM più 1,53, però nei bancari segnaliamo appunto il buon andamento per esempio di Azimut, Mediobanca, UbiBanca, UnipolSai, mentre è ancora negativa Monte dei Paschi, che in realtà lascia sul campo 3 punti percentuali. Ieri è andata molto bene di nuovo Wall Street, soprattutto sul Dow Jones. Lo Standard & Poor's ha chiuso leggermente in negativo, questa mattina anche Tokyo. Il Comune di Milano ha aderito all'iniziativa, questa la vogliamo segnalare, anche se è un'iniziativa lombarda, perché magari a qualche famiglia questa misura è sfuggita e noi la vogliamo un po' ricordare, certo. Proprio segnalare, così chi è che ha perso questo treno, esatto, rischia in realtà di perderlo, non lo perde. Allora, l'iniziativa è Nidi Gratis, è adottata dalla Regione Lombardia per azzerare la quota contributiva a carico delle famiglie meno abbienti per la frequenza di nidi d'infanzia, comunali e privati convenzionati, ma anche di micronidi. Allora, possono presentare domanda di ammissione al beneficio i nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore o pari a 20.000 euro, in cui entrambi i genitori siano lavoratori e siano residenti in Regione Lombardia, almeno uno dei quali da 5 anni continui all'atto di presentazione della domanda. Per i bambini frequentanti il nido nell'anno educativo 2015-2016 la domanda di ammissione alla misura deve essere consegnata entro il 31 agosto e si potrà in questo modo godere anche retroattivamente del beneficio al 1 maggio. Per l'anno educativo prossimo 2016-2017 saranno invece ritenute valide le domande già presentate. I nuovi iscritti sempre a questo anno educativo 2016-2017 devono presentare le domande di ammissione a partire dal 1 settembre. Parlavamo appunto di famiglie meno abbienti, allora contro la povertà il Ministero del Lavoro ha lanciato il sostegno per l'inclusione attiva, la SIA, una misura destinata alle famiglie in difficoltà che in media dovrebbe assicurare 320 euro a nucleo familiare, coprendone circa 180-220.000 per un totale di beneficiari pari a 800.000-1 milione di famiglie. Allora, le richieste per ottenere questo aiuto, le modalità sono state presentate ieri a Roma, potranno essere presentate a partire dal 2 settembre, ma ci dice qualcosa in più stamattina Dino Giornetti, responsabile del settore ISEE per il CAF CISL, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questa è una misura molto importante che per la verità era stata pensata dall'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini, ora è stata rilanciata dal suo successore Giuliano Poletti, una misura che è già stata in realtà sperimentata nelle grandi città italiane. Il piano complessivo contro la povertà appunto del governo Renzi, che si sostanzia, come dicevamo, Giornetti, in 320 euro al mese. Allora, intanto chi deve attivarsi? È una misura peraltro molto importante perché non è una mera erogazione di un sostegno finanziario, no? Questo va ricordato, ma prevede anche un percorso, un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Quindi, se vuoi, questo denaro deve anche attivarti per reimmetterti nel circuito del lavoro. Quindi è, come dire, un'iniziativa complessivamente molto più importante. Giornetti, da che cosa partiamo? Intanto cosa succede dal 2 settembre? Sì, confermo che la misura è molto importante, è proprio una misura di sostegno alla lotta contro la povertà per favorire le famiglie che in fase di disagio non solo economico, quindi anche sociale, possono avere un percorso che le rimetta, le reinserisca proprio in una struttura sia lavorativa, scolastica e sanitaria più adeguata quindi alla situazione attuale. La misura correttamente partirà dal 2 settembre, quindi le famiglie che hanno una condizione economica con un ISE inferiore a 3.000 euro potranno presentare la domanda ai comuni ed è un vero e proprio accordo con il comune, proprio perché oltre al sussidio che correttamente va in una misura da 80 euro mensili fino ai 400 mensili in base alla numerosità del nucleo familiare, prevede un contributo di bimestrale che viene caricato su una tessera. La tessera, molto come la carta SIA, esatto. La carta SIA è una tessera prepagata che ha proprio la funzione di utilizzare tutti i servizi come i supermercati, le farmacie, le parafarmacie e poter pagare le bollette, quindi le utenze, direttamente a Poste con questa carta. Quindi rientra nei circuiti tipici della carta prepagata. Infatti. Sette Giornetti, prima di andare avanti con le altre tecnicalità legate alla distribuzione appunto di queste misure, le chiedo, come dicevo all'inizio, c'è già stata una sperimentazione in 12 città italiane, no? Abbiamo dei dati su come è andata? Voi ne avete, quantomeno siete riusciti come CAF del mondo sindacale appunto a monitorare l'applicazione della prima fase, diciamo, della sperimentazione della misura? La prima fase è stata una fase difficile, più complicata, nel senso sono partiti 12 grandi comuni, più esattamente 11 perché il comune di Roma sta concludendo l'attività con calma. Quindi hanno ritardato per problemi di carattere politico, quindi hanno ritardato il sostegno, comunque si sta concludendo. E l'interesse è stato direttamente di tutti i comuni e delle parti sociali su percorsi adatti a ogni famiglia, quindi era difficile monitorare un'attività a livello centrale, tipica però di percorsi formativi e indirizzati alle famiglie, quindi dei singoli comuni. L'attività è stata importante dal punto di vista dell'indicazione da dare a queste famiglie in questi percorsi e quindi attraverso i CAF anche la valorizzazione della situazione economica per poi poter presentare le domande. Anche perché sono veramente delle situazioni difficili quelle da raggiungere. Io mi baso solamente sull'ISEE, che è veramente rasoterra, no Giorgetti? Per cui immaginiamo in che condizioni familiari, sì, personali, sociali, esatto, quindi raggiungerne anche sotto i 3.000 euro vuol dire una redditi quasi inesistenti, infatti. Redditi quasi inesistenti, nuclei familiari senza nessun tipo di risparmio, nuclei familiari che non hanno persone in attività, pur avendo persone in attività lavorativa, non dispongono di nessun reddito da lavoro, certo. Quindi parliamo di disagio assoluto e correttamente, come diceva in premessa, i nuclei visualizzabili che potrebbero godere di questa forma, che hanno già presentato un ISE nel corso del 2015, sono circa mediamente 200.000 nuclei familiari, quindi ci saranno. È importante dire che il sostegno avrà un percorso. Sono stati stanziati 750 milioni d'euro per il 2016. Con l'obiettivo di farli diventare un miliardo. Esatto, è 1,5 miliardi, esatto. Per l'anno 2016. 17. Che cos'altro devono sapere? Allora, io non so se ci sono delle famiglie in ascolto in queste condizioni che possono essere raggiunte da queste informazioni, ma magari ci sono persone vicine a queste famiglie che possono veicolare queste informazioni. Cos'altro dobbiamo trasmettere, con la promessa poi di ritornarci ad inizio settembre, quando il tutto partirà naturalmente con una bella campagna di divulgazione delle informazioni necessarie. Ancora un minuto, Giornetti, cosa dobbiamo dire? Sì, è molto importante, come diceva lei, far arrivare questa informazione alle famiglie che più deboli, molto spesso non si ha questa informazione, fare elaborare subito un ISEE se non si è già in possesso di un ISEE fatto nel 2016, verificare che il valore sia sotto i 3.000 euro e il consiglio è andare direttamente da subito, dal 2 settembre, presso i comuni per avere informazioni sul modulo. Il modulo di richiesta verrà pubblicato entro 30 giorni dal soggetto attuatore, che è in questo caso l'INPS. È importante presentare da subito la domanda, perché verranno privilegiate, verranno lavorate in ordine cronologico. Ah, ecco, quindi c'è il chi tardi arriva male alloggia, perché al momento appunto il plafond è limitato, poi quando raddoppierà si potranno accontentare più famiglie, però... Ecco, certo che il fatto che tutto parta in piena estate magari non aiuta. Detto questo, presumibilmente non sono famiglie che vanno in vacanze, che magari possono spendere un po' del loro tempo anche per attivarsi presso il comune di residenza. Ci torneremo però, Giornetti, intanto grazie per averci dato i primi rudimenti di questa misura, la lotta contro la povertà in Italia. Noi adesso invece andiamo a sentire il giornale radio e poi torniamo subito dopo insieme. Parleremo di divorzi vegani oggi, è un bel solo tema, e non solo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Cara la mia Nicoletta, eccomi qua, oggi non sono riccia. Oggi, esatto, io ho un polso fratturato e tu mi sei venuta con la permanente qua. Siamo che è naturale, mi sono lasciata il capello così, un po' che fa vacanza. Esatto, allora, non solo non ci sono più le mezze stagioni, ma non ci sono più neanche i divorzi di una volta. Mannaggia. Lo so. Perché allora non ci sono più gli uomini di una volta. Vabbè, pure le donne non è che scherzano, insomma. Non lo so. È la conclusione che non c'è pace per il diritto di famiglia, che si confronta con mutamenti continui nella sfera sociale. Quante ne leggiamo sui giornali ogni giorno, no? Ci si sposa sempre meno, i matrimoni hanno vita sempre più breve. C'è anche l'Istat che lo racconta molto chiaramente, dice che negli ultimi 15 anni, dal 2000 ad oggi, le separazioni sono aumentate di circa il 25%, i divorzi sono quasi il doppio. Poi la legge sul divorzio breve ci ha dato il colpo di grazia, ha dato un'ulteriore spinta alla decisione di molte coppie di dire basta alla vita insieme. E allora, noi ne parlavamo proprio pochi mesi fa, ma in realtà sembrano anni luce, proprio i mesi di dibattito lontani, anni luce i mesi di dibattito sull'introduzione della legge Cirinna e le nuove unioni civili. Oggi, dopo tutto questo preambolo, siamo pronti a portare all'attenzione dei nostri ascoltatori un altro fenomeno che, già lo immaginiamo, non mancherà di portare tanti commenti da parte vostra. Noi siamo pronti a riceverli all'800240024, ma anche al 349-238-6666. Lo sapevate che stanno aumentando separazioni e divorzi a causa delle liti sulle abitudini alimentari di coniugi e figli? Lo sapevi? Non solo tra conduttrici radiofoniche, c'è un gran dibattito, ecco. Allora, ad indagare su questa nuova e per certi versi, poi capiremo perché, preoccupante tendenza, è l'associazione Family Legal, e oggi è con noi l'avvocato che ha fondato questa associazione, presidente Lorenzo Puglisi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Che ha scoperto proprio come separazioni e divorzi abbiano un legame sempre più stretto con i nuovi credo alimentari. Allora, magari Nicoletta, facciamo subito la necessaria premessa che nessuno qua vuole giudicare se qualcuno vuole modificare i propri stili di vita, di consumo alimentare, eccetera. Qua oggi noi abbiamo un osservatorio di carattere giuridico e tecnico che ci è sembrato interessante analizzare. Nessuno si metterà a contestare il fatto che abbiate intrapreso la dieta vegetariana, la vegana. Quante volte ci tocca fare queste precisazioni, Nicoletta? Aiutami, perché questo è il tuo campo. No, assolutamente, ecco. Ma i nostri ascoltatori lo sanno e chi si è aggiunto alla grande schiera degli amici di Cuore Denari lo informiamo. Naturalmente non prendiamo posizioni, descriviamo una situazione e cerchiamo di leggerla con l'avvocato, ma metteremo insieme anche un medico. Assolutamente. Vogliamo dare un po', fotografiamo la situazione, l'avvocato ci spiegherà che cosa ha rilevato, che cosa sta succedendo, ma naturalmente noi vogliamo fare una sorta di assumere le veste dei conciliatori, dei mediatori. Abbiamo chiesto al dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano, di darci una mano, per cui passo passo, se vi riconoscete, 800 24 00 24, anche se non state per divorziare. Assolutamente. Però siete delle coppie miste a tavola, nella vita, quindi un vegano con un onnivoro, oppure un vegetariano, oppure state facendo... Con un intollerante, anche perché anche se c'è poi anche la patologia, magari l'altra parte della coppia non lo capisce fino in fondo, no? Se vivete accanto ad una persona che è perennemente a dieta e quindi diventa molto difficile combinare anche qualche cosa, un pranzetto carino, senza limitazioni o quant'altro, ma parleremo anche dei figli, perché anche le abitudini alimentari, come educhiamo i nostri figli, lo stile alimentare, no, con cui li cresciamo, divide le coppie. E ne abbiamo parlato anche di fatti di cronaca molto importanti e delicati proprio di recente. Allora, io reinvito di nuovo i nostri ascoltatori, se vogliono intervenire, a raccontarci cosa succede a casa vostra, se le nuove abitudini alimentari di qualcuno dei componenti sta generando dissidi e tensioni, come li state gestendo. 800 24 00 24 se volete appunto condividere con noi. Ma faccio una precisazione per Giusy e coinvolgiamo subito il nostro avvocato, che scrive: ma non è vero, dai, si separano, i motivi sono altri, ben più importanti, non scherziamo. Naturalmente ci sono dei motivi che sono sempre quelli, si ripetono, incompatibilità di carattere, ci si può sbagliare, l'amore finisce, arriva un'altra passione. Noi stiamo fotografando questo nuovo fenomeno, Giusy, per cui non stiamo dicendo che le coppie non si separano perché finisce l'amore per motivi altri, stiamo anche fotografando questa nuova situazione. Resti con noi. Con la quale peraltro si sta confrontando anche la giurisprudenza. Allora, avvocato Puglisi, sempre più divorzi nascono a tavola, come vi è balzata agli occhi questa evidenza? Intanto è sotto gli occhi di tutti che la dieta sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita di noi tutti, così anche nel rapporto di coppia. Come anticipavate voi, ovviamente è difficile che una coppia si lasci esclusivamente per la scelta del regime alimentare da destinare alla propria famiglia. Chiaro è che questa però diventa oggi una nuova piattaforma dove concentrare gli scontri di coppia, dove si concentra molto spesso la conflittualità, mentre in passato erano altri i temi che tuttora esistono ma stanno assumendo una posizione sempre più marginale. Faccio un esempio: la scelta della scuola per il proprio figlio, pubblica, privata, sono tanti i temi nei quali si innestavano conflitti intragenitoriali. Oggi diciamo che la scelta intanto di uno stile di vita culinario, ma poi anche, come diceva prima la sua collega, il fatto di prescegliere un regime nutrizionale per il proprio figlio spesso può diventare davvero un terreno di scontro insormontabile, che porta poi a incancrenire la litigiosità di coppia fino poi ad arrivare alle estreme conseguenze della separazione, al punto che si ipotizza anche in giurisprudenza la possibilità di chiedere l'addebito della separazione qualora queste imposizioni alimentari diventino non più tollerabili o comunque vadano a incidere in modo, come posso dire, ineludibile nella prosecuzione del rapporto di coppia. Voi avete addirittura stilato la classifica dei 5 motivi per cui il divorzio nasce a tavola. Prima di andare a fare questa graduatoria, che ha del folcloristico naturalmente, ma è invece molto, molto seria, e adesso ne parleremo, le volevo chiedere, proprio nella sua esperienza personale, avvocato Puglisi, le è capitato di seguire qualche coppia pronta a separarsi e che le ha portato carte in tavola, appunto proprio queste motivazioni da analizzare? E come li ha gestiti? Tenta anche una conciliazione, appunto, naturalmente, proprio cercando di far capire loro che forse questi non sono i temi sui quali scontrarsi così duramente. Assolutamente fino alla, sì. Fino all'estrema decisione, appunto, della separazione e del divorzio. Diciamo che gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia spesso invitano le parti a rivolgersi a un mediatore familiare proprio per dirimere quelli che potrebbero essere dei conflitti superabili. Quello che noi cerchiamo di comprendere insieme ai nostri clienti è se il regime alimentare in realtà non è una metafora che sottintende ben altri problemi a monte nella coppia, perché è chiaro che in un rapporto sano, dove c'è un rispetto reciproco l'uno dell'altro, difficilmente la cucina diventa un problema. Lo è se a monte c'è una difficoltà a conciliare le esigenze di ciascuno rispetto alla proiezione di sé nella coppia, perché anche questo è molto importante. Quello che noi diciamo sempre è che per il buon esito di un rapporto di coppia ci vuole il rispetto dell'altrui coniuge o dell'altrui partner, per cui è vero che ciascuno di noi è libero di fare le proprie scelte anche in ambito culinario, ma queste non possono diventare delle imposizioni fine a se stesse, perché altrimenti ricadiamo certo. Nell'ambito del cerco di cambiare il mio partner a mio piacimento, ma alla lunga non funziona. Il primo motivo per cui un divorzio nasce a tavola è quando uno dei due opta per un regime alimentare molto drastico, mi pare di ricordare, no, avvocato? Ce sì. Lo vuole già raccontare, poi andiamo anche alle analisi dal punto di vista nutrizionale con Nicoletta. Ma sicuramente una delle principali cause deriva nella scelta di uno dei due di aderire a una filosofia culinaria estrema. Ho fatto l'esempio dei vegani con gli onnivori, non perché questi possano, come posso dire, possono rendere impossibile una vita di relazione, ma perché nel momento in cui si applica un'estremizzazione di una scelta radicale a tutto il nucleo, familiare, è chiaro che questo può essere vissuto molto male da uno dei due. E tornando alla domanda di prima, un esempio pratico che ci è capitato di recente è il marito che non solo non accetta questa nuova imposizione culinaria da parte della moglie, che invece è una vegana fervente e convinta, ma lo fa anche a fronte di una cultura familiare alle spalle che gli impone tutt'altro. Cioè, si è proprio verificato uno scontro tra famiglie, dove peraltro ovviamente la suocera la fa da padrona, ma questo purtroppo rientra anche nell'immaginario collettivo, e il problema diventa proprio il fatto di o aderire a una determinata filosofia in questi casi, oppure cercare di elevare uno scudo rispetto ai propri familiari a monte, perché spesso l'ingerenza da parte di mamma e papà rispetto al rapporto di coppia non è salutare, anzi non aiuta. Per cui, ripeto, la scelta del cibo, la scelta della propria cultura culinaria deve essere un qualcosa da assumere in modo coscienzioso da parte di entrambi i partner, senza imposizioni e senza estremizzazioni. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Io mi limito ovviamente a registrare quella che è una tendenza che porta spesso le coppie poi a lasciarsi. Nicoletta, ma tu avresti mai immaginato 5 anni fa, quando facevi Essere Benessere, un giorno di dover affrontare con questo taglio questo argomento? Mai. Io non l'avrei mai pensato. Il nostro è un lavoro straordinario, sempre una sorpresa. Abbiamo Gabriella che ci scrive: mio figlio si sposerà a ottobre con una dolcissima ragazza cinese, abitudini alimentari diverse ma stimolanti. Gabriella, che sarà che quindi diventerà suocera, è uno dei motivi per cui si litiga anche, no, il piatto della cucina di mamma, e che affronteremo. Esatto. La domanda che vi vogliamo fare è: rinuncereste alla bistecca, metti bistecca, uovo, latte, per amore? Diteci se le scelte alimentari del vostro compagno, della vostra compagna, vi hanno condizionato, se avete fatto dei cambiamenti, nel caso se siete soddisfatti, o se invece mandate giù per evitare il problema, per il quieto vivere. Dottor Speciani, coppie miste a tavola. La diversità nella vita e anche a tavola può essere ancora una risorsa. Ho anticipato che lei oggi ha un po' il ruolo, oltre che di medico, di mediatore, di conciliatore. Vogliamo vedere anche l'altro lato della medaglia. Partiamo da un esempio concreto. Lei vegetariana, poi andiamo ai vegani, lui onnivoro. Ci può essere una buona contaminazione con vantaggi reciproci? Ci aiuti a definirli? Assolutamente sì. Credo che sia uno degli esempi più simpatici da fare. Tra l'altro mi piace questo ruolo che mi è stato dato, anche perché nella mia vita professionale mi occupo di tolleranza alimentare, cioè io insegno alla gente, la parola magica. Insegno alla gente a rimangiare di tutto, e quindi questo è anche una metafora positiva di quello che avviene. E prendo prendo uno spunto da quello che ha detto prima l'avvocato, dicendo no, perché uno da tavola la coppia cerca di cambiare l'altro. La letteratura è piena di coppie che si rompono perché uno o l'altra cerca di cambiare dal punto di vista delle aspettative e dei pensieri. Non esistono le croce rossine, si vive insieme in modo bilanciato ed equilibrato. Allora, quali sono i vantaggi di una contaminazione? Ad esempio, una persona vegetariana ha sicuramente una maggiore conoscenza di quelle che sono le fonti di proteine vegetali, cose che sono nella cultura italiana tendenzialmente dimenticate, quindi come gestirsi i legumi, come gestirsi la soia secondo determinate modalità, come utilizzare i semi oleosi, che sono fonti tra le più importanti. Ed ecco che già l'apporto, sapete che uno dei miei motti è crudo, vivo e colorato, quindi iniziare a mangiare con frutta e verdura, ecco che il vegetariano tende a imporre, a portare nella cultura di casa questo tipo di elemento. Dall'altra parte l'onnivoro classico italiano medio, che quindi non è abituato ad una varietà alimentare, può apprendere, ma contemporaneamente portare ad esempio la ricchezza di un corretto bilanciamento di proteine. Uno degli elementi che spesso manca nel vegetariano è un corretto quantitativo, secondo quanto dice l'OMS, che sono proprio un bel bilanciamento del piatto, che deve avere un tot di carboidrati, un tot di frutta e verdura, un tot di proteine. E quindi ecco che è una contaminazione positiva che può avvenire nel rispetto davvero delle culture differenti, mettendo insieme il buono dell'uno e dell'altro. E questo avviene. Noi vediamo, la mia famiglia ad esempio utilizza classicamente, abbiamo tutti delle reazioni da cibo differenti e quindi abbiamo dei piatti che possono essere miscelati in modo differente con la stessa amicizia. Allora, Debora, abbiamo i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24, perché, come spesso succede, alla vigilia delle vacanze il dottor Speciani ci ha portato il suo libricino magico. Eccolo là, il controllare il peso attivando il metabolismo. Ecco, noi vogliamo... Il nostro bestseller, anche l'avvocato lo porta, magari lo può portare in studio, avvocato da Family Legal. Noi vogliamo attivare, no, l'equilibrio e l'armonia nelle coppie, così toglieremo un po' di lavoro all'avvocato. Ma ecco, lui... non sarà tanto contento. Però allora, intanto 800 24 00 24 per raccontarci di voi, della vostra coppia. Parleremo anche naturalmente della dieta dei nostri bambini, anche questo è un motivo di incontro. Adesso e di scontro. Esatto. Andiamo a Pisa? Andiamo molto volentieri a Pisa, dove c'è Tommaso che ci aspetta. Peraltro, visto che abbiamo anche scomodato la Toscana con la prima telefonata di oggi, saluterei con affetto anche il messaggio di Carlo che ci dice: antenno single, mi sposerei volentieri con una fiorentina. Fa anche la battuta il nostro amico carino. Carlo. Esatto. Non l'avevo capita subito. Allora, peccato che non siamo noi. Esatto, pensavo che ci facesse una proposta di matrimonio. Niente da fare, ci è andata male stavolta. Vabbè, Tommaso, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, è una battuta a doppio senso, immagino. Eh sì, certo. No, niente, la mia testimonianza è quella di essere compagno di una psicologa, psicoterapeuta che da più di 2 anni è vegetariana e questo ha portato alla nascita di conflitti, esattamente come diceva l'avvocato. La dinamica è quella, certo che poi ogni coppia, ogni persona ovviamente è singola, non bisogna generalizzare. Ma Tommaso, mi ascolti, la difficoltà nasce dal fatto che lei non sopporta che la sua compagna abbia questo nuovo regime alimentare o è la sua compagna che insiste con lei per cambiare le sue? Ecco, esatto, è la seconda che ha detto. È questo che non si capisce a volte, è questo che crea conflitto, è il fatto di voler portare eticamente dalla propria parte. E l'imposizione etica dà fastidio a tutti. Certo che io ho diminuito l'apporto di carne, ne sono contento, consapevole, però il vegetariano e il vegano è sotto insieme dell'onnivoro. Per cui chi non ha la cultura del convivio, come nel caso della mia compagna, perché questa è la mia idea, cioè perché il cibo veicola anche affetto, allora questo a me ha creato dei problemi, le cene con gli amici, avere dei sottogruppi. E quindi ha fatto un po' fatica, però Tommaso, mi sembra che lei abbia trovato il modo per superarle. Sì, faticosamente, perché ci vuole un po' di... No, no, ci vuole elasticità. Bravo, Tommaso, elasticità, la parola sì, chiave. Sì, perché sennò è finita. Grazie Tommaso, ci sono tantissimi messaggi di davvero? WhatsApp. Cosa dicono? Allora, sono Giovanni, sono un vegetariano due, o mangio la carne due volte alla settimana. Mia moglie è intollerante alla cucina, ci scrive Camillo. Ah, la cucina non ha qualche alimento. Quindi si mangia solo quando mi metto io ai fornelli, ma grazie a questo siamo tutti belli snelli. Quindi c'è anche sempre lato dell'altro. Anche fatto rima. No, come l'altro... vedere il bicchiere è mezzo pieno, esatto, delle situazioni, hai visto? Mentre Fabio ci scrive che per amore non rinuncerebbe alla sua libertà sia alimentare che di altro tipo. Per cui Fabio è tutto di un pezzo, non vuole fare rinunce. 800 24 00 24, continuate a chiamarci, a scrivere, a raccontarci se siete coppie miste, certo, che cosa state per affrontare e se siete magari anche sull'orlo di una crisi. Abbiamo qua l'avvocato in studio. Assolutamente, pronto a farci da consulente qua sul campo. Lo scontro, avvocato Puglisi, sulle regole alimentari con cui allevare i figli si guadagna il secondo posto in questa classifica che avete stilato, appunto, dei 5 motivi per cui il divorzio nasce a tavola. Lascerei questo argomento, che è molto delicato, nella seconda parte del programma per approfondirla appunto adeguatamente anche con Nicoletta. Vorrei andare, tanto perché siccome andiamo alla borsa tra poco, questi due minuti di tempo di folklore li dedichiamo invece agli scontri che nascono per colpa di mamma. Allora, già molte separazioni e molti divorzi avvengono, e questo lo sappiamo bene, ne che scopriamo l'acqua calda questa mattina, per le ingerenze appunto da parte di familiari che non dovrebbero invece più di tanto condizionare l'andamento della vita del nuovo nucleo familiare che si copia. Ma quanto becco mette mamma e papà, mettono mamma e papà appunto nelle scelte alimentari della nuova coppia, e addirittura voi avvocati vi dovete trovare anche a gestire situazioni di questo tipo? Assolutamente sì. Allora, consideri intanto che la prima causa di addebito della separazione non è l'infedeltà coniugale oggi come oggi, ma è proprio non essere in grado di arginare i propri genitori rispetto al rapporto di coppia. Quindi sicuramente ancora oggi è un fattore culturale che incide moltissimo sulle relazioni. Detto questo, cosa vediamo molto spesso? Che i nonni, la nonna, sia materna che paterna a seconda dei casi, tende poi a influenzare anche di nascosto i nipoti, nel senso che nel momento in cui i genitori scelgono un regime alimentare che non viene condiviso da loro, ad esempio quello vegetariano, poi scatta la vacanza di una settimana al mare con i nonni in giugno e luglio, dove i nipoti vengono rimpinzati con ogni ben di Dio e vengono poi magari fatte foto del bambino che mangia il prosciutto, certo, con la suocera sfida, che dice no? Esatto, vedi che gli piace tanto, però la mamma non te lo dà mai. Esattamente. Povere esattamente. Suocerine, dai, d'altra parte non è che si possono sposare, no, solo certo, gli diciamo orfani, che dal loro punto di vista hanno anche la loro ragione, un atteggiamento protettivo, amorevole nei confronti del nipote. Il cibo è il primo modo con cui questo amore appunto tendenzialmente viene ad essere trasferito loro cultura, nella loro percezione. Avvocato. Io mi riallaccio a quello che diceva prima giustamente il medico. Allora, intanto secondo me è un conflitto intergenerazionale che va ovviamente analizzato con buon senso. Sicuramente in passato non si aveva la stessa cultura che si ha oggi in termini nutrizionali. Quindi il fatto di avere oggi un bagaglio di conoscenze che ci consente di dosare meglio la nostra dieta è sicuramente un fattore positivo che è un plus per le nuove generazioni. C'è anche da dire che quelle vecchie si portano dietro un'esperienza di vita che quelle nuove probabilmente non hanno. Quindi a mio avviso è proprio uno scontro che in questo momento probabilmente non può trovare soluzioni, ecco. Allora, ci occuperemo anche della cucina di mamma con una lettura un po' psico. Ci raggiungerà il dottor Aquilar, per cui se volete sfoderare, lamentarvi, perché il triangolo, che è un triangolo, no? La suocera, la nuora e o viceversa. Comunque, abbiamo tanti ascoltatori, distribuiremo poi naturalmente controllare il peso attivando il metabolismo. Ma Deborah, mercati, prima dei mercati, posso leggerti il messaggio di Fabiano, come preferisci, un ascoltatore che ci scrive: ho creato un mostro. Sentiamo. Il mio compagno ha dovuto subire le mie letture ad alta voce dei manuali del dottor Speciani, del dottor Ungaro, del dottor Mozzi, e ora è terrorizzato da quello che mangia. Mangiamo insalate, cetrioli, semi, noci, mandorle, per non sbagliare. Mamma ma siamo mia, contenti che mangiassero, ma un pochino di più ci vuole, o no, dottore? Assolutamente sì, la varietà alimentare è la cosa più bella. Cito, e uso proprio 10 secondi, ci sono alcune malattie, prendiamo il morbo di Crohn, che in Europa sono legate a latte, frumento e lieviti, in Cina a riso, soia e mais. Cioè, la stessa malattia identica, stesse biopsie, stesse cose. La varietà salva. la tolleranza nei confronti del cibo, degli alimenti, salva. Sentendo parlare del bambino che va via, se uno affida il bambino a qualcuno di cui ha fiducia, gli lascia esperire, avere esperienza di una settimana di nonna carnivora. Santo cielo! Cioè, voglio dire, l'adattabilità fa parte del riuscire a mantenere un background solido e mantenere una varietà alimentare. Poi pensate, lo dico magari proprio ai genitori integerrimi, che ricordi meravigliosi avranno questi bambini della loro infanzia, quando trascorrevano delle settimane con i nonni che faceva fa loro di tutto e mangiavano di tutto, no? C'è anche questo ricordo che ha molto più valore di una settimana, diciamo, di privazioni o comunque abitudini alimentari un po' più restrittive. Allora riformuliamo la domanda, come suggerita gentilmente da un nostro ascoltatore, certo, via WhatsApp. Perché fate la domanda "per amore rinuncerebbe alla bistecca", ma non fate la domanda "per amore mangereste una fettina"? Quindi, bravo, perfetto, grazie. 800 24 00 24, mettete bistecca, fettina, fiorentina, uova, formaggio, latte, aggiungete quello che volete, ma raccontatecelo all'800 24 00 24, dopo i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a The Drive. Beh, non vi posso raccontare cosa non sta succedendo questo dentro questo nostro studio. Stamattina sto invertendo le parole proprio ora che vado in vacanza. Dottor Speciani, è grave, no? No, un po' posso, sì. Colpa del dottor Speciani che mi ha cambiato il regime alimentare. No, ho detto parte questo. No, abbiamo scoperto una parentela che ci piace molto, ma la possiamo raccontare oppure no? Vogliamo? No, che il nostro avvocato Puglisi ha una parente molto nota nel mondo della cucina per gli appassionati dei show cooking, no? Noi, gastronomici, che a noi piace. Che piace molto. Che è Sonia Peronacci. Che salutiamo. Quindi Giallo, vedi, è blasonato anche non lui. Non fa più adesso Giallo Zafferano in televisione, se non ricordo male, però ormai è associatissima a quel brand. Nicoletta, Dove eravamo rimaste? Eravamo rimaste al dottor Speciani, a cui vorrei ritornare un po' alle coppie. Abbiamo parlato di coppie miste a tavola, abbiamo sottolineato gli aspetti positivi che un onnivoro può avere, no? Dalla, certo, convivenza stretta con un vegetariano e viceversa, ma onnivoro e vegano il problema si complica un po', perché la scelta vegana è più totalizzante, onnicomprensiva, riguarda quasi tutti gli aspetti della vita, dal cibo che si mangia, gli abiti, i prodotti per il trucco, per la detersione della casa, i mobili. Quindi, limitandoci alla tavola, sono questi due approcci così differenti che impongono di imboccare a volte strade diverse, che so, a partire dal supermercato, la gestione del frigorifero e dei conti, e anche il momento proprio di quando si prepara la cena, i fornelli, no? Due pentolini diverse, due ricette diverse, odori, contaminazioni differenti. Allora chiediamo, naturalmente rinnoviamo ai nostri amici di raccontarci se hanno esperienze, ma intanto, dottor Speciani, diamo delle indicazioni per chi lentamente, gradatamente pensasse a una sorta di avvicinamento. Quali sono i passi da fare per effettuare questo passaggio da una dieta onnivora o vegetariana a una dieta vegana? Perché non si può fare dall'oggi al domani e richiede una conoscenza per evitare carenze. Ah, è più che una conoscenza, direi che è proprio una consapevolezza di alcuni tipi di scelta. Mentre il vegetariano o l'onnivoro in realtà hanno un rapporto col cibo che è comunque tendenzialmente su tutti i possibili cibi, il vegano come tipo di impostazione crea un'eliminazione di cibi che sono indispensabili all'essere umano. Significa questo che all'interno anche degli stessi blog, delle strutture di comunicazione scientifica vegan, il fatto che ci sia una necessità di reintegrare una carenza che si determina, che è una carenza di vitamina B12, una carenza spesso di zinco, di vitamina D, che sono elementi che sono fondamentali ad esempio per la crescita e per lo sviluppo dei bambini come per gli adulti. E normalmente il vegano tende a compensare con delle integrazioni specifiche, però di per sé significa che è una formulazione dietetica che ha una scelta ideologica che quindi come tale è assolutamente rispettabile sul piano individuale, ma che sul piano fisico può determinare dei problemi. Allora ecco che qual è la contaminazione tra un vegano e un onnivoro? Significa che da un punto di vista pratico ci sono degli aspetti condivisibili, quello etico, quello della sostenibilità che di solito il vegano porta come tipo di, come dire, di istanza, di proposizione positiva che può diventare comune e condivisibile. A quel punto nelle coppie che conosco con questo tipo di relazione, e sono poche e difficilmente continuative, nel senso che lì cambia proprio una modalità di pensiero rispetto alla vita. In realtà quando c'è una contaminazione c'è, nel senso che a volte c'è comunque una tendenziale più introduzione di fibre, di vegetali nella dieta dell'onnivoro, c'è una regolazione dell'aspetto diciamo della gestione delle proteine. Questa cosa tendenzialmente porta, dove ho visto delle situazioni positive, che anche il vegano, pur rispettando la propria struttura e la struttura dell'altro, mangia più proteine vegetali, quindi aumenta quantitativamente l'apporto che spesso è carente nelle situazioni di tipo nutrizionale. Quindi devo dire, se poi due si vogliono anche bene, ben venga, no? E quindi non ci sono delle contaminazioni positive. Una cosa volevo dire, che quando si è innamorati la gente sta normalmente senza mangiare, no? E dopo, quando un momentino l'innamoramento trova spazio più consolidato, dove a uno gli viene anche fame, gli vengono appetiti diversi in tutti i sensi, e quindi è interessante andare lì. No, non posso, è mattina, non posso. No, certo, è la vita, meno male. No, volevo solamente chiedere all'avvocato Puglisi, sempre parlando un po' delle conseguenze giurisprudenziali delle scelte alimentari, quando queste portano ad una rottura della vita di coppia. Ci sollevava lei prima la questione dell'addebito della separazione, no? Io immagino che una giurisprudenza pregressa su esperienze di questo tipo non ci fosse. Come vi state comportando voi avvocati, i giudici che cosa dicono quando si trovano a gestire anche separazioni che partono da motivazioni come queste? Intanto diciamo e chiariamo anche a tutti gli ascoltatori che l'addebito ancora oggi esiste nel nostro ordinamento giuridico, ma è sempre più desueto, nel senso che i giudici tendono a riconoscerlo sempre più raramente, perché le separazioni sono sempre più consensualiste. Sì, anche per questo motivo, anche per questo motivo consideri che in Spagna, come in altri paesi a noi vicini tipo la Svizzera, il debito è già venuto meno, quindi non si può più chiedere la separazione per colpa. I giudici tendono ovviamente a tanto rimanere un po' basiti quando arrivano delle cause di separazione esatto, con questi presupposti. Allora, intanto se tutto si concentra solo su quello, il rischio è di prendere una bastonata da parte del giudice in senso figurato, ovviamente. Vabbè. Perché è chiaro che soprattutto se ci sono dei minori coinvolti, una superficialità a tal punto estremizzata sicuramente verrebbe penalizzata da un giudice. Se questo poi va a discapito di un minore, ha maggior ragione. Quello che può fare un giudice in questi casi è nominare un consulente d'ufficio, un CTU, che va a valutare ad esempio la capacità genitoriale di un genitore, proprio per comprendere se una scelta applicata anche alla vita di un figlio sia stata fatta con le dovute cautele, proprio per far sì che certo, non venissero meno quelli, come posso dire, quei principi nutrizionali fondamentali per la crescita. E qui poi si innesta un altro problema, che è quello legato ai casi forse più gravi, ovviamente, all'intervento del servizio sociale in primis e a procura dei minori in secundis, nel senso che anche qui quindi sconfiniamo, facciamo in un campo... ecco, un'attenta riflessione anche su tutte queste potenziali conseguenze che poi ricadono, ovviamente, come sempre succede, Nicoletta, tutte le colpe che ricadono sui figli. Allora, a proposito di figli, abbiamo Stefano da Pordenone che ci propone un quesito che è perfetto per il nostro prossimo ospite. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie, grazie. Allora. Sì, io ho 23 anni, è un'amorosa che è vegetariana da 7, quindi è molto convinta. Sì. Anche lei è più piccola di me, quindi ha iniziato molto presto. Ed è vegetariana proprio di quelle toste. Mm-hmm. E ogni tanto tipo parliamo del futuro e ogni tanto viene fuori la domanda tipo è il figlio? Io rimango delle mie idee, cioè io sono onnivoro e dico ok, ci rispettiamo a vicenda le sue idee, io le rispetto e lei rispetta le mie. Però tipo nel momento in cui si parla di un figlio, di un'educazione, sì, io sono abbiamo idee opposte, nel senso che io sono dell'onnivoro, ma se vorrà diventare in futuro vegetariano, ben venga. Lei invece è no, vegetariano, se in futuro vuole diventare onnivoro, ben venga. Quindi due posizioni. Ci troviamo con due educazioni diverse, nel senso io onnivora e lei vegetariana. Allora, che fare soprattutto qua, dato che anche la dieta del nostro bambino, dei bambini, divide i genitori, noi abbiamo il piacere di avere in linea per fare un po' da conciliatore e da mediatore la dottoressa Elvira Verducci, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienza della Salute all'Ospedale San Paolo di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Anche la tavola divide, dottoressa Verducci, qual è la sua esperienza a riguardo e soprattutto quale aiuto può già dare al nostro ascoltatore che sta progettando una famiglia, il bambino, onnivoro vegetariano, da che parte si comincerà? Allora, il primo concetto che volevo sottolineare è questo, che deve un po' rafforzare il concetto del ruolo dei genitori. Che forse si è perso ultimamente, cioè i genitori si devono riappropriare del loro ruolo educativo, cosa che forse in questi ultimi anni si è andata un po' persa. E quindi pensare che un bambino ha la sua, è importante che venga seguito dal punto di vista educativo, ma educativo vuol dire, non so, educazione come comportamenti, educazione come sonno, educazione anche a corrette abitudini alimentari. Quindi questo volevo come parte, diciamo, introduttiva. Il secondo concetto anche e quindi questo è il messaggio per i genitori che dicono basta che il bambino mi mangi, mangia quando vuole, cosa esatto, vuole e dove esatto vuole. Quindi già cioè, è una prima bacchettata. I genitori devono riapproparsi di questo ruolo e sapere che loro, soprattutto nei primi anni di vita, che sono riconosciuti i primi 3 anni più o meno, che sono fondamentali proprio per avere la strutturazione di corrette abitudini alimentari, del gusto, corretto rapporto col cibo, perché non si parla anche molto, ma sono in aumento i disturbi del comportamento alimentare anche nei bambini piccoli, non sono solo peculiarità dei disturbi degli adolescenti, sono in aumento anche nei bambini piccoli. E questo perché deve esserci appunto l'avvio a delle corrette abitudini alimentari, un rapporto con il cibo, e anche questo è importante la figura dei genitori, di tutte e due ovviamente. Quindi è importante questo, sapere che le preferenze, cioè ciò che assume poi il bambino nelle epoche future, è un qualcosa che si può modulare nei primi anni di vita, e i genitori devono essere modello. Facciamo l'esempio, no? Si sa che i bambini hanno come errore alimentare quello di saltare la prima colazione, quello che si dice ai genitori è: voi genitori siete un modello, la prima colazione dovete i primi sedervi voi a tavola con i vostri bambini per dar l'esempio. Sia ecco che siate vegani, vegetariani, sia che siate onnivori, noi ci fermiamo qui perché ci sono le informazioni sul traffico e ci sentiamo subito dopo. Cuore e denari. La tavola unisce ma la tavola divide, e anche l'educazione alimentare dei bambini crea spesso dissapori, discussioni tra i genitori. La nostra dottoressa Verducci in linea raccomanda: i genitori devono riappropriarsi del loro ruolo, devono dare l'esempio. Un esempio che però, dottoressa Verducci, diventa difficile se i genitori, come nel caso dell'ascoltatore, hanno due credo alimentari differenti, quindi uno è onnivoro e l'altro invece è vegetariano oppure vegano. Ci dà due dritte per gestire un po' e prevenire eventuali problemi, gestire i conflitti, ma assicurare anche una dieta equilibrata e varia al bambino? La risposta alle sue parole, cioè qui è una situazione che bisogna prevenire, quindi prima di ovviamente agire in quello che è un approcciarsi al bambino devono essere i genitori a mettersi d'accordo, cioè le conflittualità non vengono ben viste e ben subite dai bambini. I bambini hanno bisogno di regole, di sicurezza e di armonia, e questo è importante, anche l'ambiente in cui si crea il rapporto col cibo e il bambino. Deve essere un ambiente armonioso, i genitori devono essere d'accordo nelle loro norme educative che riguardano dall'alimentazione ma da tutto il resto. È un esempio l'alimentazione, ma anche di per sé come mettere a letto un bambino. Cioè i genitori devono essere in accordo. Nel momento in cui si crea il disaccordo, il bambino non riesce a capire, non ha più delle quindi, regole. Quindi la prevenzione è ancora a monte, prima di si dice. Assolutamente. Grazie, dottoressa Verducci, per essere stata con noi. Le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi tutti, buona giornata, arrivederci. Darei uno spunto tecnico. Oggi le ultimissime ricerche sullo svezzamento infantile dicono allattiamo il seno per un tempo prolungato, ma iniziamo ad introdurre nell'alimentazione del bambino gli assaggi di quella che è la realtà familiare che si trova a vivere. Allora, in una situazione come quella di Stefano, dove uno mangia in un modo, l'altro mangia in un altro modo, la logica per il bambino è di assaggiare un pochettino di tutto complessivamente, in modo da entrare in possibilità di tolleranza immunologica nei confronti degli alimenti. E poi sarà la sua scelta, che sarà guidata dall'armonia tra i genitori, successiva a muoversi in questa direzione. Però dal punto di vista immunologico, lo sviluppo di tolleranza immunitaria è un dato importante che serve per lo svezzamento dei bambini. Quindi direi che questo taglia un po' la testa al toro sul cosa sì, cosa no. C'è una famiglia che mangia con due cose differenti e il bambino assaggerà un pochettino dell'uno, un pochettino dell'altro. Certo. No, volevo fare un'ultima riflessione con l'avvocato Puglisi, certo. Lo ricordo ancora, fondatore e presidente di questa associazione Family Legal, sempre ritornando sui famosi 5 motivi per cui il divorzio nasce a tavola. Abbiamo affrontato il tema della scelta drastica di regime alimentare, poi le regole alimentari su cui allevare i figli, quando tra i motivi di scontro alimentare fa capolino la cucina di mamma, ma c'è anche il tema importante, tralascerei la lite che nasce su come preparare pranzi e cene per le festività, perché veramente questa ha dell'incredibile, eppure gli scontri nascono anche su questo. Ma c'è il tema, avvocato Puglisi, che pure vi tocca affrontare, della dieta che è causa di litigi anche per via degli scompensi. Anche questo, Nicoletta, è un bel tema di cuore, per gli scompensi ormonali e di conseguenza umorali a cui le ristrettezze e i divieti inevitabilmente conducono. Avvocato. Sì, allora, per il benessere di coppia è chiaro che devono interagire tanti fattori. Nel momento in cui il mio fisico viene debilitato dal tipo di alimentazione che assumo, è chiaro che ne risente in generale il mio umore e così anche l'umore della coppia, il che poi genera un effetto domino, perché nel momento in cui questo stato d'animo si incancrenisce e assume forme anche patologiche come la depressione, è chiaro che questo poi va a incidere anche sulla vita di relazione, quindi con l'esterno, ma anche sulla vita sessuale, che nell'ambito di coppia sappiamo tutti è un cardine fondamentale. Quindi questo sì va a incidere sulla serenità. Comunque quello che mi veniva da dire, Nicoletta, è che anche gli avvocati sono sempre più cuore denari, non c'è niente da fare. Tu immagini, avresti mai immaginato un avvocato che 10 anni fa un giorno ti sarebbe venuto a raccontare anche di dover gestire situazioni di questo tipo? Beh, insomma, mondo allora cambia. All'amico di prima dico, la vita è già complicata di suo, cambia morosa finché sei in tempo. ci scrive Giuliano. Allora, gli ultimi minuti della trasmissione li spendiamo per dare delle indicazioni sempre al nostro triangolo, no? Certo. Non c'è io, lei e l'altro, ma triangolo, c'è mamma. No, non l'avevo considerato. C'è mamma in linea con noi, è il dottor Francesco. Eccolo. Aquilar, buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Il nostro psicoterapeuta cognitivo, dottor Aquilar. Allora, la suocera, che sia di lei, che sia di lui, mamma del maschio, mamma della sposa, insomma, no? Si intrufola nella relazione e spesso se lo fa in modo, come ci ha descritto l'avvocato, in modo molto subdolo. Una cosa è certa, la cucina di mamma resta sempre nel cuore e diventa motivo anche di scontro. Diventa motivo di scontro perché a volte rappresenta l'arma del duello, ma in realtà, come si diceva anche prima, ti sfida Maccheroni a timballi. Esatto, diventa proprio l'arma del duello, ma come diceva prima anche l'avvocato, la questione è che in quel momento si manifestano altri conflitti, altre tensioni, altre acredini che sorgono il più delle volte in altre situazioni. E certo, ma senta, lei nel suo ambulatorio, nel suo studio arrivano, immagino, no? Nello studio dello psicoterapeuta, chissà quante ne sente della suocera o del, no? Ah, certamente, ci sono alcuni. E come se la gestisce? Ci sono alcune pazienti che dedicano gran parte del tempo, soprattutto all'inizio della psicoterapia che nasce per un problema coniugale, proprio all'interferenza continua da parte della suocera. E quello che serve fare è di aiutare la persona intanto a conoscere il punto di vista dell'interlocutrice, che in questo caso è una nemica, e poi a poter esprimere in maniera più chiara il proprio punto di vista, ma soprattutto di essere consapevoli che sotto c'è una questione di competizione. Per competere bisogna essere in due, se uno smette di competere si abbassa immediatamente il livello di tensione. Quindi concretamente per un messaggio, certo che il timballo che mi fa mia mamma è fantastico, quel piatto magnifico che fa tua mamma. Certo, lì subroutine di resa. Mi piacciono. Oppure strategicamente la subroutine di resa, è vero, è proprio buonissimo, il mio è soltanto indegno, quando avrò l'età di mamma saprò farlo anch'io. Vedi, vedi com'è già subito che va al sodo il dottor Aquilar, dottor Speciani. E qua si chiude subito, no? Di alla mamma che me ne faccia due teglie, le surgeliamo. Esatto, infatti, già che mi fa anche comodo, visto che lavoro tutto il giorno, invece tua madre ha tempo di cucinare. Per questa non si può dire, vero dottor Aquilar? Qua è scivolata sulla buccia di banana, Deborah. In qualche modo dobbiamo usarlo non come un'arma di competizione, ma come un'arma per ridurre i conflitti. Di collaborazione, esatto. Collaborazione con la subroutine di resa che in termini strategici è molto funzionale. Quindi no, li lasciamo, non combattiamo, ci arrendiamo e in questo modo spegniamo i conflitti prima che si accendano. E poi creiamo un altro settore nel quale non c'è competizione. E se le polpette di mamma erano le più buone del mondo, noi faremo le polpettine di ricotta. Vedi, di spostiamo il livello della competizione. Dottor Speciani, il nostro avvocato, siamo agli ultime battute. Concordo, è una delle tecniche precise per trasferire la metafora in altri modi. Quindi e anche la salute ci guadagna perché c'è varietà. E poi appunto impariamo dei piatti differenti, però voglio dire che lui dice, quando vedo le nuore che hanno discussioni sulle suocere, io che vedo anche pazienti con patologie immunologiche spesso un pochettino più anziani, potrei dire che esiste la lega delle suocere che hanno la recriminazione sui primi momenti su quello che combinano le nuore o i generi. E quindi, infatti, esatto, dovremmo anche esplorare quel mondo là. Sì. Mia nuora me lo sta avvelenando, esatto. Ecco, mi sta dimagrendo a vista d'occhio. Allora, il consiglio che do sempre io è di arginare sempre di più la suocera che non la moglie, per cui con tutto il bene che si può volere alla mamma cerchiamo di privilegiare questo cordone il rapporto umbilicale di va assolutamente staccato e glielo si deve far capire con delicatezza, naturalmente rispetto, però a un certo punto bisogna anche essere un po' drastici su questo. Allora, una puntata veramente vivace e spumeggiante, Nicoletta. Non abbiamo distribuito i nostri... Ma tu hai ancora un sacco di giorni di tempo per poterlo fare, lo sai, no? Allora, avevamo però, ecco, vedi, Vincis Grassi, e questo è il piatto della mamma di Deborah per cui io vado pazza. Speriamo, esatto, che a settembre mi non ci sarà mai nessun taglietta. Conflitto con nessun fidanzato su questo, guarda, perché io me ne porto sempre un sacco in congelatore pronti per tutti. Allora, chiediamo agli ascoltatori che sono stati messi in attesa, certo, ma che poi per le nostre chiacchiere non abbiamo potuto naturalmente dare spazio, di mandare i loro riferimenti. Laura mi sta facendo che devo salutare, mandate a Cuore Denari e vi arriverà il libro di Attilio Speciani. Grazie anche a Lorenzo Puglisi, grazie Family Legal, per essere stati con noi. Buone vacanze a tutti, noi ritorniamo qua domani, però è pronte belle come sempre. Ciao, a domani.